ridimensionato la fatica per noi di passare subito all'azione dopo la commestione e la poca digestione. Io penso di fare solo un'unica tornata. Cominciamo questo momento, che sono le 3:12 minuti, 3:14 minuti, e andiamo avanti fino alle 5:20, così. Cioè, dico alle 5:20 perché eventualmente si può arrivare al massimo fino alle 5:30. Allora, ci rimane un'ultima riflessione che è importante, però io desidererei che fosse non troppo lunga come dibattito, e invece vorremmo insistere di più su un aiuto che ci dobbiamo fare per rispondere a domande come queste sintetiche: quale ripercussione nel nostro fare teologia e non solo ecclesiologia? Questo è il nostro problema qui. Quali ripercussioni, quali provocazioni vengono a noi oggi, quali orientamenti? Non direi rimpicciolire di nuovo il discorso su piccole questioni, cioè cogliere le grandi questioni, anche se noi abbiamo visto che sono molti i problemi particolari nei quali siamo impegnati, ma soprattutto vedere l'oggi, cosa si può fare, e addirittura eventualmente se il messianismo, attraverso questa direi elastica, se volete, ma ampia applicazione che ci ha presentato, addirittura la possibilità di interpretare con questi criteri, anche se sfumati, tanti fenomeni umani, non ci obbliga un tantino a riscoprire la diversità di situazioni in cui ci troviamo oggi. Ecco, allora il problema è ecclesiologico, ma a monte abbiamo scoperto che è un problema anche cristologico e teologico, nel senso della comprensione stessa di Dio e dell'appello a Dio. Allora, in questo ultimo momento di completamento del quadro, ad intra, nella Chiesa, comincerà Bob, quali ripercussioni? Ecco, questo appello a popoli messianici, e teniamo sempre presente anche il fatto che questo Papa, entrando con questo messianismo alle spalle del popolo polacco, sembra aver risuscitato movimenti più o meno che si possono interpretare dentro la Chiesa con questi criteri di messianismo. Cosa pensare di tutto questo? Ecco, soprattutto per non avere la faciloneria di precipitare giudizi così avventati oppure puramente politicizzati, ideologici. Ecco, che cosa fare perché il meno di ideologia, secondo lui, il meglio dell'ideologia possa passare delle nostre riflessioni. Allora, caro Boff, prova a dire qualcosa. Dunque, io nell'orizzonte dello ad intra dovrei parlare di autorità e coscienza. Suppongo letto e acquisito quello che qui è scritto, e allora mi limiterò a una serie di interrogativi, nel senso proprio di un tentativo di definire una sorta di reazione della problematica avanzata e aperta dal dibattito sugli interrogativi che qui già appaiono posti. Cercherò di essere quanto mai sintetico e veloce, poi a un certo punto comunque mi fermo. Messianismo, abbiamo visto la molteplicità dei significati, sino all'ambivalenza o all'ambiguità. Vorrei riprendere, così, proprio per precisare un aspetto, la distinzione tra messianismo positivo e negativo, come aveva ieri definita Creci, per dire attivo e passivo, attivo e passivo, proprio per definire il nostro tema, quello della autorità. Ecco, io credo che soltanto se noi ammettiamo il messianismo attivo e passivo, togliamo almeno un impedimento, no? all'accettazione del messianismo. Perché un messianismo che si intende soltanto attivo mi pare già intrinsecamente qualificato da un atteggiamento imperialista. I discorsi fatti da Monsignor Moretti e ad altri sulla povertà, eccetera, eccetera, mi pare che sottolineassero la necessità di mettere insieme, vuoi la coscienza di una proposta, di una possibilità di una proposta messianica, vuoi la disponibilità all'accettazione di un messianismo da parte degli altri. Ora, questo diventa particolarmente rilevante proprio nella prospettiva della definizione del rapporto intraecclesiale del leader, cioè dell'autorità. È chiaro che qui mettiamo in gioco tutti i problemi, quanto mai delicati, del rapporto autorità potere. E autorità potere è venuto fuori questa mattina, soprattutto da intendersi, da definirsi nella prospettiva della croce. Noi dovremmo aver presente che il potere cristiano è un potere segnato essenzialmente dalla croce. Ecco, che cosa significa questo? Il tema poi si precisa in questo modo ancora. L'autorità nella Chiesa è un elemento della istituzione. In quale rapporto sta la istituzione con il carisma? E questo diventa un'interrogativa attuale e urgente, perché il messianismo, così come noi l'abbiamo visto nella varietà delle sue manifestazioni, mi sembrava sempre decisamente volto alla identificazione, alla omologazione con il carisma. E questo diventa un elemento quanto mai importante. E sarebbe comunque interessante analizzare proprio dal punto di vista storico questo tema, questi rapporti. Dopo abbiamo messianismo, leader o autorità. Abbiamo varie concezioni dell'autorità, vari orientamenti più che concezioni. Si può per esempio pensare all'autorità in una direzione soprattutto funzionale, per esempio quando si intende l'autorità come garanzia della unità, è soprattutto una interpretazione funzionale. Quando noi parliamo dell'autorità, qui Sartori ne parla esplicitamente, nel senso della vicarietà, è un altro tema. Abbiamo anche la concezione, l'orientamento, la direzione dell'autorità come rappresentatività. Rappresentare che cosa? A chi? Nel rappresentare ci sono queste due dimensioni. Che cosa? A chi? Ecco, il leader nella Chiesa si prende come, si presume, si pretende, si propone come rappresentante di che cosa? A chi prima di tutto? Alla Chiesa. E c'è un rapporto ad intra. Ma insieme con la Chiesa, il messianismo non avrebbe altrimenti senso, si presenta come rappresentante di qualcosa ad altri. E sono le due dimensioni che noi dobbiamo tenere accuratamente presente. Ma nella misura in cui il leader si presenta come rappresentante per la Chiesa di qualcosa, in qualche modo assume in sé la funzione messianica. Riassume in sé la funzione messianica. Che cosa significa questo concretamente? Il leader è il Messia per la Chiesa, diventa la espressione della messianicità della Chiesa, diventa l'elemento di mediazione per la messianità della Chiesa. Mi pare che siano tutti interrogativi che si fanno quanto mai urgenti, soprattutto nella situazione attuale, nella quale noi stiamo discutendo in fondo, la funzione di rappresentanza che il Papa si assume. Voi all'interno della Chiesa, voi in nome della Chiesa verso gli altri. Ed è qui che c'è un altro gioco assai delicato. Il rapporto che il Papa assume nei confronti del suo gruppo, della sua Chiesa, può essere tale da o assumere la Chiesa come mediazione nel rapporto con gli altri. E questo lo isola dagli altri. Gli dà una particolare figura, oppure l'altro pericolo è che lui salti la Chiesa e pretenda ad un rapporto con gli altri che poi si verificherà come rapporto di vertice oppure rapporto, che so io, di gioco di masse, non sappiamo. Comunque diventano, mi pare, anche questi aspetti abbastanza delicati che qualificano proprio il senso della messianicità in questo ordine di problemi. Ecco dunque. Qui mi pare che si recuperi in qualche modo quella problematicità dalla quale noi non ci districhiamo mai in maniera sufficientemente chiara, del Messia singolare e del Messia corporativo. Un altro ordine di problemi, sempre collegato, è questo. Questo leader si presenta con una determinata identità etnico e culturale. Noi l'abbiamo scoperto, forse, o meglio, abbiamo avuto un impatto violento per il fatto che finalmente abbiamo un papa polacco, cioè un papa diverso dalla tradizione del papa che identificavamo nella sua concretezza quasi con la universalità, con la trascendenza. Ora noi invece sentiamo la collisione tra la identità del papa, la singolarità del papa, e quella pretesa, presunta, necessaria trascendenza che il Messia o qualsiasi funzione messianica dovrebbe comportare, come ieri sottolineava Fabris. Se noi affermiamo questo, se noi accettiamo questa impostazione, se noi ci collochiamo in questo ordine, no, di idee, nella misura in cui c'è il messianismo attivo che il Papa esercita come leader della Chiesa e nei confronti degli altri, il problema quale diventa immediatamente? Quello del pluralismo. Che significato ha il pluralismo? Ha il significato del riconoscimento fattuale che ci sono degli altri. Al significato della valorizzazione degli altri e come? Della valorizzazione della messianità degli altri, intendendo la messianità nostra e la messianità del Papa, in senso inclusivo e non esclusivo, ma come? Ecco il pericolo delle formule che sono formule, diciamo, di dover essere e che poi minacciamo sempre di supporre, in fondo realizzare, se dobbiamo, in fondo anche siamo con qualche piccola correzione, no? Ma l'accettazione del pluralismo e l'eventuale valorizzazione del pluralismo da questo punto di vista è sufficiente? Oppure non si richiede di più? Non si richiede proprio la promozione del pluralismo, la promozione della diversificazione, proprio perché abbiamo riconosciuto anche ripetutamente qualsiasi realizzazione messianica è sempre parziale e quindi la trascendenza proprio del messianismo e delle varie funzioni che messianiche in qualche modo presumono di essere deve essere proprio quella di un'apertura maggiore, di ricerca addirittura di ulteriori realizzazioni. E se questo è vero, in quali forme? La collegialità episcopale? Il parlamentarismo? Quali altre forme? Dobbiamo in un certo momento accettare, così come una situazione, in fondo, essendo inevitabile, va anche bene, che per esempio si succedano, ora che pare che verranno papi di pelle diversa, si succedono messianismi, in fondo individualità, ognuna con la sua presuntuosa assolutizzazione, ma che poi noi relativizziamo, diciamo, quasi in seconda istanza, oppure dobbiamo ripensare diversamente, cercare di prospettare un po' questa diversità nel senso di un progetto. Ecco, ancora, un leader che abbia questa funzione proprio di apertura al molteplice può essere entro una delle cerchie che si affacciano nell'orizzonte della totalità, della molteplicità almeno. Voglio dire, il leader non dovrebbe essere per sua natura in questa posizione, un leader di frontiera, cioè una figura di frontiera e non una figura interna, perché se ci sono vari centri e c'è uno che ha il centro assoluto, gli altri sono tutti cerchi concentrici. Insomma, se il leader è un prete e i preti sono quelli che li stringono attorno, il cammino verso il Papa, e deve essere un cammino verso il Papa, se è il centro, è un cammino di clericalizzazione, ecco, espresso in una certa forma. Ecco, c'è, lo accenna Sartori, e questo accenno lo riprendo, c'è per esempio nel nuovo codice di diritto canonico, no? In qualche modo un nuovo progetto, forse non è del tutto nuovo, riprende il Vaticano II, ma ho sentito dire, io non lo so, che per esempio il diritto canonico attuale supera il concetto e la struttura della territorialità. Guardate che questo è un fatto molto importante nella definizione della Chiesa locale, no? Nella definizione poi delle strutture, eccetera, eccetera. Se c'è una territorialità sarà un elemento, uno dei tanti elementi contingenti. Ecco, ma questo è soltanto un elemento che dobbiamo lasciare lì, nella sua dura negatività, oppure è almeno l'indicazione di un nuovo processo di riconoscimento degli elementi positivi, di identificazione, che prima erano, per esempio, per la parrocchia, la territorialità è avanti questo passo, no? Ecco, questo è un altro tema. Naturalmente tutto questo reincide poi nella comprensione del leader, se il nostro leader è il Papa di Roma. E ecco allora quello che accennava Sartori, così sarà il Papa di Roma eventualmente in futuro, soltanto, come si chiamano, i vescovi titolari. Ecco, e questo è un problema. E avevo capito, la titolarità significa nulla, bisognerà vedere allora quali sono gli elementi di questa identificazione, no? Il tempo sta velocemente camminando, quindi salto più non posso. E dico, se c'è un rapporto tra leader e Chiesa, questo rapporto, notate, si propone anche come modello nel rapporto Chiesa con leader con gli altri. Cioè i rapporti intraecclesiali diciamo, rapporti messianici, intersecclesiali, si devono inevitabilmente, si propongono come modello del rapporto con gli altri. Ecco allora, tutti i problemi, no, che vengono fuori, la Chiesa come esemplificazione del messianismo che proponiamo, non esemplificazione di qualunque tipo, ma esemplificazione già realizzata. Possiamo pensare diversamente. Il rapporto gerarchia e base all'interno della Chiesa, che è quello che vogliamo stabilire con il rapporto Chiesa e altri gruppi? Ecco, questo è un grosso problema, a parte mio. È stato richiamato alcune volte il discorso dei triamunera, no, degli uffici. Noi sappiamo che, proprio nelle definizioni anche bibliche del messianismo, si parla di un messianismo regale, di un messianismo sacerdotale, eccetera, eccetera. Ecco, dobbiamo avere chiara percezione, chiara coscienza di due cose. Prima di tutto dell'assoluta relatività di questa tripartizione. M'han detto, l'ho sentito dire, voglio dire, che il diritto canonico che afferma i triamunera poi di fatto salta completamente uno dei tre, quello profetico, no? Ci siamo. C'è il magistero. Sì, d'accordo. Ma docente, che chiesa docente. E cosa c'entra? Ecco, è interessante avere presente questo. Ma il fatto che l'eventuale leader si presenti nella linea di triamunera, il fatto che la dimensione regale e la dimensione sacerdotale sono storicamente legata alle forme del dominio, alle forme della sacralizzazione, alla forma dell'esclusione, non significa già una ipoteca che noi gettiamo sulla funzione messianica del leader, proprio nel senso di un imperialismo che prima si realizza all'esterno, all'interno, e si promette con ciò all'esterno. Ecco, questo è il grosso problema. In fondo, se noi andiamo a vedere qual è la storia dei messianismi. Non dico la definizione del messianismo biblico nella sua essenza eterna o cristiana o biblica, eccetera, eccetera, positiva, ma la storia dei messianismi non è stata sempre una storia di oppressione. Noi possiamo sperare che il messianismo che noi proponiamo oggi, eventualmente, possa liberarsi da questa ipoteca storica. E se si libera, se può liberarsi, quali sono le condizioni che dobbiamo immediatamente attuare e realizzare? Ecco, questo mi pare che sia un altro problema molto grave, molto urgente, perché altrimenti lo schema regale e lo schema sacerdotale, no, se sono messianicizzati, sono ancora ulteriormente rafforzati proprio nelle loro dimensioni illibertarie. Ecco, questo se noi non rivediamo profondamente la storia. Messianismo, peraltro, nella sua dimensione attiva, è la missione. E la missione è, se c'è un messianismo, no? L'attuazione del messianismo attivo. Ebbene, qui c'è un altro grosso problema, per mio. Ed è questo. Quando noi parliamo dei laici, per esempio, e parliamo dei laici come quelli che sono particolarmente competenti, no? Nei confronti del mondo, e riserviamo alla gerarchia che cosa? Altro. Non veniamo a compromettere la essenzialità della missione nella Chiesa. Non è possibile, mi pare, definire da un lato la missione soprattutto come rapporto, nella linea del rapporto Chiesa-mondo, e poi affidare ai laici, no? In particolare la presenza nel mondo, e pretendere che la struttura gerarchica della Chiesa rappresenti la definizione pressoché essenziale della Chiesa medesima. Ecco, questo per me è un giro, un nodo di problemi ancora da districarsi. L'ultimo di questa serie di interrogativi. Quando noi parliamo di leader messianico all'interno della Chiesa, nei rapporti con l'altro, dobbiamo tenere presente che questo va coniugato con la messianità del Cristo. Noi sappiamo, ne abbiamo discusso, ne abbiamo fatto con noi, quello che significa la derivazione cristologica del sacerdozio, eccetera, eccetera. Ecco. Il Cristo, nella nostra concezione cristiana teologica, rivendica una certa unicità, rivendica una certa assolutezza. Ecco, come si coniuga questa con la possibilità di un messianismo del leader all'interno della Chiesa, che non sia la occupazione da parte del leader ecclesiastico di questa messianità esclusivamente cristica, esclusivamente insomma dell'unico vero mediatore, e avanti questo passo. E finisco dicendo questo. Tutti questi problemi sono problemi che si pongono all'interno della Chiesa, si pongono nel rapporto Chiesa e mondo, si pongono in rapporto a tutte quelle esigenze che, diciamo, come retaggio e eredità dell'illuminismo noi abbiamo, no? Esigenza di libertà, esigenza della responsabilità personale, esigenza, l'illuminismo diceva, di rottura con la tradizione, ma diciamo di libertà nella tradizione, che può anche essere libertà dalla tradizione nel senso del rapporto critico che con la tradizione dobbiamo assumere, ma si pongono anche in particolare, e questo non soltanto i temi specifici che ho toccato, ma tutti quelli che ci stanno a monte del messianismo, nel contesto della società postmoderna, dove la caratterizzazione mi pare sia quella del rifiuto del messianismo, perché è rifiuto del futuro come attesa, del futuro come speranza. Ecco, io questa mattina, quando volevo entrare nei temi della questione lineare, eccetera, eccetera, volevo fare così, ma una mi preme dirla. Oggi noi ci troviamo dinanzi ad un'interpretazione della circolarità della storia, la storia ciclica, non come noi tendiamo sempre a leggere, nel senso di una fissazione, di un irrigidimento nella necessità, ma nel senso proprio della vera liberazione, che vera è perché nulla tende dal futuro, ma si esplica, si esaurisce e si completa, proprio diventa teleios, no? Nel presente, cioè nell'impiego delle chance che di momento in momento si presentano, e chance che sono tali da riproporsi continuamente, così da non poter mai essere neppure perdute. Questo è il senso della circolarità che noi leggiamo oggi in Bataille, no? Nella lettura che Bataille fa di Nietzsche. Ecco, noi dovremmo, io penso, tra le altre considerazioni, proprio avanzare questo. Noi oggi dobbiamo valutare il messianismo come confronto critico con questa proposta, dove si nega proprio quella che è stata indicata questa mattina come l'unica caratterizzazione del messianismo, la più vasta, l'apertura al futuro. Ecco, proprio l'apertura al futuro è indicata oggi come l'ultima, ma più radicale forma dell'asservimento, cosicché si supera l'asservimento nella conclusione all'interno del presente, vale a dire in fondo nell'unica possibile valorizzazione delle chance che di momento in momento si presentano. Il messianismo dice no. Dice che il presente è sempre chiuso e se diventa esclusivo e conclusivo, addirittura mortificante e disumanizzante. Ma proprio qui allora può acquistare la sua rilevanza al discorso messianico. Se diventa una voce attuale, proprio perché è contestativa delle voci che oggi, proprio nella più urgente e nella più bruciante attualità, si presentano come progetto, e addirittura non soltanto come progetto, ma addirittura come esito inevitabile della nostra storia. Ho finito. Battiamo le mani? No, non è un caso. Perché è finita.